Suonarono in quel momento le 8. Le 8 del 12 maggio del 1721. La contea di Pigtown si era appena svegliata. «Sono le 8 e tutto va male!» Cominciò a gemere il cieco davanti alla porta del Duomo. «Lor signori, per grazia, non avrebbero niente da mettere nella ciotola del povero cieco per fargli passare un po' meno poveramente la sua povera, povera, così povera giornata di accattone e straccione? Neanche un misero, un orfano, Fanning, che non serva nemmeno a comprarsi un po' d'aria?» Passavano allora, proprio di là, per andare alla scuola, Jim Turner e Bobby Shelton e Anacleto Winkelfeld. «Pesca magra», gli dissero. «Siamo scolari e nient'altro, e tutto quello che abbiamo sono libri, che servono anche meno di un Fanning». Questo era l'incipit di Penny Wharton e sua madre, di Silvio Darcy. È la seconda parte di Eclettica del volume numero 2, la voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni tutti i giorni fra le 19 e le 20. In questa seconda parte già vi siete sentiti molto, a partire dalla cover del brano di Madonna Stay da parte di Malcolm Middleton, ex Arab Strap, per proseguire con il remix da parte di Peter Holmstrom e Jeremy Scherer del brano Dead Sound e Ravionettes, e per chiudersi con All Y'all, Ringo Starr. E questo è il nome della formazione che ovviamente prende ispirazione dal batterista dei Beatles, con una leggera variazione, Ringo Starr. Per proseguire con un trio che mi ha stupito per la sua maturità. Pensate, sono tutti attorno ai 19 anni, nati comunque ben oltre il 1985, così recita la loro biografia senza dare dettagli maggiori. Vengono da Flint, nel Michigan, che è stata resa famosa da Roger and Me di Michael Moore, ve lo ricordate, spero che lo abbiate visto, e sono già al loro secondo album, che esce il 28 di febbraio per Fat Cat Records, secondo album che contiene delle tracce come quella che vi sto per far ascoltare, che impressionano per maturità che stranamente dimostrano, nonostante, come già vi ho detto, siano giovanissimi. Se vedete le loro foto, vedete come anche siano effettivamente molto molto molto giovani. Ce n'è solo uno che riesce a avere un segno di basette, l'altro è il tipico ragazzo americano sovrappeso, con la faccia anche un poco spaventata. E il terzo sembra il tipico nerd, Our Brother the Native. Questo è il nome della formazione, As They Fell Beneath Us. Questo invece è il brano. Thank you. Now Homer Simpson's gonna show he has cojones! Quando un uovo va in cocci, si sa, succedono sempre pasticci. E più grosso l'uovo, più grossi i pasticci. E anche questo è più chiaro del sole. Bene, quando alla fine quell'uovo andò in pezzi, ed era proprio un ovone così, quello che avvenne fu invece una festa. Il fatto è che dall'uovo mise subito fuori la testa un pinguino di un giorno, di un'ora e un minuto. E se a questo mondo si può essere davvero felici, mamma e babbo lo furono proprio, e si davano un bel mucchio d'arie. «Dio, che fronte! Ma hai visto che fronte?» diceva estasiata la madre. «Mi fa quasi soggezione, parola!» «Tre volte quella del maestro a dir poco!» tossiva il padre facendo la ruota. «Una fronte d'artista, ecco tutto!» Questo era l'incipit de Il pinguino senza frac di Silvio D'Arza. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 17, volume numero 2. Indice, 13 Ghosts, Blood on the Wall, The Zen Circus e Brian Ritchie assieme a Kim Deal e Kelly Deal, To Kill a Petty Bourgeoisie, Frightened Rabbit, Il Genio, Malcolm Middleton, Ravionettes, Gringo Starr, Our Brother the Native, British Sea Power, The May Shy. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.